ciao, ciao. Ciao. Ma si va avanti. E io acceso, quindi ho fatto la chiamata poco fa, e c'era attore evidentemente impegnato e non si va a far sentire. Ma sei freddo in macchina? Quando ti saltato sulla 27, molti non entrano, ma che volta magari si fanno sentire, ma raramente, mi sembra che sta andando e sta morendo, cazzo, sta sentendo nessuno. Un distacco di Vittore, lì, anche lui è sempre impegnato, non è sempre che qua, però quando è libero già entra, io accendo qui, a quest'ora accendo, se sono 10 minuti, non c'è nessuno, allora chiudo. Ma altri canali non ci vado, capito? Tanto non c'è nessuno. La voglia arrivi a Cialanova e l'hai uscito, per cui va bene. E non devo fare, ragazzi, durante il giorno non c'è nessuno, nulla, solo qualche gente da fuori, qualcuno che prende a sé, ma non piace più come prima, per cui ogni tanto così magari la sera alle 7 è acceso, siamo 10 un quarto d'ora, lo procuriamo, ma non sempre, e dovrebbe fare, e purtroppo è così, e tu gli accerai lo sguardo, io sembra a campagna, sto sentendo questo periodo, non è giocata. Magari se non so se devo fare qualche visita o oppure ci devo andare a fare qualche spesa, capito? Ma il resto no, prima già uscivo, ma infatti mi ha messo in caso mi dico, che ma com'è che si è un teatro che si chiude? E non mi fa, non mi fa e basta, e cosa mi fa? Dai, non ce ne voglia e cosa mi fa, Andrew? Oh, yeah. Ma che forse c'è così a campagna? Una mezz'oretta e basta, boh, il resto non esco, io non esco, e so che casa da cadere all'altra, e mi fa, poi cazzo c'è il magazzino, il cappugnetto, che ho pagato 10 euro per il mercato e così via, ah, ma sono giornata così. Ma è così, a che io quando anche gli amici erano, magari un po' più di artista in quei anni, però uscire proprio no, prima uscivo e cazzo si rimaneva a casa, ma adesso non c'è più stai, come la fai? Cazzo, ho cazzo detto per il gioco, per cui io sto pesante, poi ho anche fatto difficoltà anche legale, con questa mia bestia che adesso mi ha preso alle piante di piedi, devo stare pedalando sempre perché se no mi fanno molto male, e poi qualche altro cazzo di accesso, però per cui non... Non più è tanto, grazie a Dio, già posso camminare piano piano e tranquillo, capito? Ma perché hai a carogna blu? Thank you. vicino però e dice no io ho preso il lunedì, noi saliamo a Piazza dei Segni, saliamo tutti i lunedì salvo che non ci sentiamo male, ma noi saliamo tutti i lunedì e per cui c'è da scegliere, prendiamo un po' di verdure, un po' di cose, perché facciamo la pubblica tutta la settimana, poi se ci sono qualche cosa ci scappiamo a Europi, magari certe volte andiamo a Europi e le D è a capo, insomma, ma non sempre, ogni tanto lo facciamo un'altra cosa, però è in macchina, a piedi, no? Da prima a piedi mi piaceva camminare, ma adesso sono in macchina, se non a piedi è raramente a uscire, ragazzi. Negozio qua la cosa là, ogni tanto entro, però magari entriamo quando magari ci c'è qualche cosa che sono dimenticate, qui là, allora entriamo, però sono sempre in macchina, ragazzi. Sempre bene, anche se non vuoi segnalare, ricetta perfetta, perfetta, perfetta. E così sono ricetta, io ho qua, ho 40 gradini, ma sembra così, ma mi pesano, eh. Io ogni piano rosso mi devo fermare, anche se mi devo un cartone di acqua, da qui. Quello che ce la faccio, però ogni piano rosso mi fermo. Guarda sopra mi viene l'affatto. Piano piano, e poi da poco c'è la conversazione, e io ho detto basta, mi vediamo qua, siamo direttamente in garage da sotto, e poi la dipendenza della casa. Però quando abitavo nella casa, in una roba di casa, ho fatto il cavellino, mettevo le bottiglie lì, questo cavellino, se no, se no che c'è lo stato. E piano piano, adesso non funziona lo stesso, però molto diverso. Non fece da di giù a nulla, mi aveva comando a mangiare un video, ho fatto la cava segnata, piano piano, con questo cagnolino, con questo cerezzo, sta venendo in giro. E fai bene tu, fai bene, faccio un carino e un caffarino, so che è rischiare, però chi tengo di meno, capito? Non so, lo conosco, ce l'ho io, però non l'ho mai usato, eh. Noi l'abbiamo comprato anni fa, ma non l'abbiamo mai usato, e facciamo piano per qualche volta sono per esempio persone che mi aiutano, capito? Per cui la moglie era per senso di me, per io non può nemmeno camminare, cammina ma cammina con difficoltà, peso non può prendere, c'ha tutte le gambe in giro, i gonfi, si può immaginare, e sono io che lo so, anch'io piano piano gli andrà, ce la porto su quando non c'è nessuno, capito? No, siamo aiuto piano piano, dai. E cosa devi fare? Va bene, brava. Chiudo. Grazie la chiacchierata, lo faccio piacere. Adò, se senti a Gianni, e o ce lo vedi, salutamelo tanto. Sì, sì. Ok, anche a me mette piace, io non ci sono più, però guarda, mi sembra che 54 anni che sono in casa, non l'ho mai mollato, non l'ho mai mollato, e io, che io ogni tanto è anche se non c'è nessuno, lo accendo, dopo magari non c'è nessuno, ti lo accendo, e me ne vado con le ai portoni di cielo, oppure c'è il magazzino così lascio per svagarmi, capito? Tutto lì. Va bene, Bruno, buon proseguimento, salutoni, ci sentiamo, ciao, grazie a chiacchierare.